si perde. È una terra dove vive una donna piena di gioielli e molto attraente. È la donna delle isole che gioca con il suo serpente. Nessuno può scordare.